sei troppo uno sfigato perché lo sai, come noi, noi becchiamo una cifra di fila con le nostre storie sull'euro, euro, euro, euro, siamo vicini agli euros, e tu no, non sarai mai, perché la sfiga con te, tutto l'euro, noi vicini agli euro, noi vicini agli euro, noi siamo vicini agli euro.